9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e buongiorno a Giorgio Fidenato, salve. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dov'è adesso, dov'è? Ah, sono nell'ufficio, tranquillo, insomma, che devo fare dei lavori. Tranquillo nell'ufficio a fare dei lavori, ma che fa oggi, risemina? Ma adesso io non ho più terreni, insomma, però ci sono molti miei colleghi, si sta analizzando la possibilità di fare un qualcosa simile anche a Brescia, perché il mondo sta, insomma, gli agricoltori stanno, dopo questa mia iniziativa, si stanno galvanizzando. Hanno capito che da 12 anni, dal 2001, che l'Italia... Non mi parta col comizio. Allora, che cosa semina lei? Cioè, lo spieghi bene agli ascoltatori. Io ho seminato già il famoso MON 810, cioè una varietà di mais che contiene il tratto genetico MON 810, che è l'unico tratto genetico per il momento autorizzato alla semina in Europa. E che cosa c'ha di più? Cos'ha di più questo MON 810? Tratto genetico consente alla pianta di produrre una proteina che è dannosa e tossica per un insetto che è il principale patologia che ha il mais nella sua coltivazione. E mi faccia capire, ci sono colleghi di Brescia, suoi colleghi di Brescia, che stanno pensando a seminare la stessa cosa? Loro, perché siamo stanchi di questa situazione. E partiranno a breve? Adesso si sta analizzando, perché purtroppo hanno un po' quasi tutti seminato in questo periodo, anche se quest'anno è una stagione molto ritardo, si sta valutando se riescono a trovare un appezzamento che sia adeguatamente sulla strada, perché se in mezzo ai campi è un po' difficile poi far constatare alla gente, far vedere alla gente. Si sta vedendo, insomma, se c'è la possibilità di avere un appezzamento su una via principale, in maniera che la gente venga a vedere che cos'è questo OGM, perché è stato dipinto come un male, come un veleno, come un qualcosa che riteniamo giusto far capire alla popolazione, a tutti i cittadini italiani, che cosa sia questa cosa qua. Senta una cosa, quello che volevo capire è che lei praticamente può seminare questa cosa in forza di una sentenza della giustizia europea, della Corte di Giustizia europea sostanzialmente. Anni fa ha ingaggiato una battaglia contro lo Stato, perché lo Stato italiano e la regione Friuli Venezia Giulia non si smuovevano, era un continuo batti e ribatti in cui era impossibile vedere. Siccome nell'ordinamento giuridico italiano a un cittadino non è concesso sollevare una questione o di incostituzionalità o che una norma non è conforme al diritto europeo, tocca fare un'azione per cui si avvia un processo e nell'ambito del processo incidentalmente si possono aprire delle questioni. Sì. Nonostante questo, i giudici italiani, fino alla Corte di Cassazione, 16 giudici non hanno mai voluto rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea, perché ritenevano il diritto italiano conforme, eccetera, eccetera, se non che poi nel settembre dell'anno scorso, in un'altra causa promossa dalla Pioneer contro lo Stato italiano, la Pioneer è una ditta sementiera, il Consiglio di Stato ebbe l'ardire di chiedere un parere preventivo alla Corte di Giustizia Europea, la quale emesse una sentenza in favore. Poi il giudice del mio dibattimento, notando che dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 di settembre alla sentenza che mi avevano fatto sul mio caso la Corte di Cassazione, notava che c'era una discrepanza, ha chiesto ulteriormente una precisazione. Il resito è venuto l'8 di maggio, confermando pienamente quello che io, il mio avvocato e il Movimento Libertario da 3 anni andava sostenendo, che la legge italiana non è conforme alla direttiva europea. E quindi lei questi semi li può piantare. Cinzia Scaffidi, direttrice del Centro Studi Slow Food Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vi ricordo il numero per intervenire in diretta e parliamo, come avete capito, di OGM, 800 24 00 24. Mi trovate anche su Twitter se volete, Simone Spezia. State già commentando sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/9in.radio24. Ci trovate là, poi leggerò anche qualche messaggio che mi è arrivato, ce ne sono di interessanti. Allora Scaffidi, voi come Slow Food vi siete costituiti parte civile contro Fidenato, ho capito bene? Come funziona? Sì, noi ci siamo costituiti parte civile in una visione che è quella del nostro ruolo di associazione che si occupa di biodiversità e che si occupa di agricoltura di qualità e che si occupa di di quello che per questo paese è uno dei punti di forza, nel senso che sia pure in una situazione di crisi conclamata quale ora, l'unico settore che sembra non andare in crisi è quello del Made in Italy agroalimentare ed è quello del turismo enogastronomico legato a questi prodotti. Ed è chiaro che in questi prodotti i consumatori stanno cercando qualità, stanno cercando identità, territorio, storia, sicuramente non cercano gli OGM. E quindi un elemento del genere è di sicuro danno per tutto il comparto, nel senso che comunque c'è anche tra l'altro il fatto che chi sta facendo biologico perde ogni garanzia nel momento in cui si semina in maniera completamente irrazionale. Ieri il ministro ha detto che in Italia questo lavoro è vietato, per cui allora se dobbiamo dare credito a qualcuno, almeno il ministro dell'agricoltura che ha ribadito ieri che in Italia non si può seminare, mi pare una fonte sufficientemente attendibile. Scafidi, la interrompo, insomma, voglio andare con calma e le chiedo anche di aiutare a capire, aiuti un profano come me a capire, e poi avremo anche altri ospiti nel corso della puntata, ci saranno altre domande che voglio fare a Fidenato. Aiuti un profano come me a capire. Che differenza c'è tra il Mono 810 o qualsiasi altro tipo di semente di questo genere, no? Prodotta per esempio dalla Monsanto o da altre grandi multinazionali, e al di là della proprietà, intendo naturalmente, no? Perché poi c'è anche questa questione, vedremo se avremo il tempo di trattarlo, perché mi sembra importante anche quello, il fatto che queste sementi sono di proprietà di qualcuno, perché in particolare appunto di un'azienda. Però al di là di questo punto io voglio capire, ma che differenza c'è tra questo e un innesto, tanto per fare un esempio, che è comunque che si conclude naturalmente in una modifica genetica, oppure nella selezione che noi abbiamo operato nel corso degli anni o dei secoli di tipi di grano o tipi di frutta, di verdura, che appunto abbiamo selezionato nel corso dei secoli e selezionandole, incrociandole in vario modo, abbiamo prodotto appunto le varietà che più preferiamo e che troviamo nelle nostre tavole. Che differenza c'è tra queste due cose, visto che si tratta comunque di modifiche del DNA? Ma guardi, una piccola parte di questa confusione nasce un po' dal fatto di avere comunque poi usato la parola biotecnologia come fosse automaticamente sinonimo di transgenico. In realtà la biotecnologia è tutto quello che avviene sul materiale vivente, compreso mettere il caglio nel formaggio, voglio dire, quello è biotecnologia, nel senso che è una cosa che si fa e non che avviene spontaneamente. Però l'elemento chiave della differenza tra questo elemento transgenico, che proprio significa che si attraversano i confini dei generi, è proprio che si crea un incrocio tra due elementi che in natura non si incrocerebbero. E quindi, per esempio, un conto è fare una selezione tradizionale tra grano e grano, per cui io metto insieme due varietà, una che ha il gambo più corto e quindi non alletta, e l'altra che ha una granella più pesante e quindi fa un raccolto migliore o più fitta, e allora metto insieme due varietà con due performance positive e spero di crearne un'altra che le abbia tutte e due. E con i sistemi che gli agricoltori hanno sempre utilizzato, questo è stato il senso del lavoro che loro hanno sempre fatto. Un altro conto è se io incrocio un elemento vivente con un insetticida, con una molecola tossica, come ci spiegava prima Fidenato. Allora, siccome io sostanzialmente non ritengo di essere poi così diversa dal punto di vista del sistema vivente da un insetto, da una farfalla, da un parassita, allora io non ho la certezza che quella molecola tossica che introducono in quello che io mangerò non abbia su di me lo stesso effetto che ha su quel parassita lì. Allora, tutto sommato, c'è proprio una grande differenza tra i due elementi. Oppure, quando introduco una resistenza ad un erbicida, significa che introduco un pezzettino di quell'erbicida all'interno del DNA del mais. Siccome l'erbicida poi tra sé si riconosce, quando io spargo di erbicida al campo il mais verrà salvato perché l'erbicida non attacca se stesso, ma io me lo mangio l'erbicida. Allora questo è un pezzetto della preoccupazione di fondo che abbiamo e su cui non ci sono in questo momento dati certi, perché chiaramente fare le sperimentazioni su lungo termine e sugli uomini non è così semplice. Io posso prendere 100 ratti, se mi va, per 4 settimane fargli mangiare solo GM e vedere cosa succedono, perché alla fine dell'esperimentazione, e chiedo scusa agli animalisti, ma questo è quello che succede nei laboratori, alla fine della sperimentazione io quei 100 ratti li uccido, li analizzo e li uccido, e non vado a vedere come si evolve la loro vecchiaia. Ecco, capisco. Invece non posso prendere 1000 persone, chiuderli in un recinto e costringerli per 20 anni a mangiare solo GM, perché si chiamano campi di concentramento quelle robe. Allora, ragionamento chiaro, Scaffidi. Abbiamo al telefono Simone Maccaferri, che è stato fino a poco fa presidente dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani. Lo saluto innanzitutto, buongiorno Maccaferri. Buongiorno a tutti. Prima di farla parlare voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore e poi a leggere anche qualche messaggio su Facebook. Iniziamo da Stefano, che ci chiama da Sabaudia. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo dire solo questo. Allora, il problema degli OGM in Italia è questo, secondo me. Allora, noi produciamo meno soia di quella che è la necessità. Allora, cosa succede? La importiamo dagli Stati Uniti. Anche chi fa latte di alta qualità è costretto ad acquistare questa soia. Questa soia è OGM, quindi il discorso di non produrre in Italia, secondo me, è una barzelletta, perché è inutile non produrre in Italia e poi acquistiamo. Io ho degli amici che fanno latte di alta qualità, comprano soia OGM fatturata ed è legale, e chi ritira il latte sa che adoperano questa soia OGM. Funziona così. L'ascolto per radio, grazie. Grazie Stefano. Allora, una piccola precisazione a Pierluigi Corradi, ascoltatore che consuetamente commenta sulla nostra pagina Facebook, tra gli altri dice: cosa ho sentito, questo signor Fidenato è un agricoltore senza terreni? No, non è un agricoltore senza terreni, è semplicemente finito di seminare ieri, cioè ha finito i terreni nei quali poteva seminare, non è che non ha terreni naturalmente. Ci scrive Ex Libris: spero che questo signore si penta amaramente delle sue scelte distruttive della biodiversità, della salute pubblica e delle eccellenze dell'agricoltura italiana. Ancora Roberto Savastano: sto confidenato tutta la vita, gli ho pure ordinato tempo fa 2 sacchettini di sementi, sono per la libertà di scelta impresa e contro la superstizione antiscientifica che vorrebbe imporre scelte medievali a tutti. Come vedete, insomma, c'è un certo equilibrio tra i commenti che ci lasciate. Allora, Simone Maccaferri, dunque, ha sentito le obiezioni alla questione OGM di Cinzia Scaffidi. Le chiedo a questo punto, visto che so che lei è un pro OGM, di controbattere a tutto questo e di darci qualche indicazione dal suo punto di vista. Beh, principalmente più che pro OGM, penso che si debbano iniziare ad attuare delle argomentazioni realistiche e razionali. In primo luogo, per quanto riguarda i pesticidi, noi spesso vediamo, per quanto riguardano le analisi da parte dei NAS, che anche dei prodotti di carattere biologico hanno delle concentrazioni di pesticidi più alte rispetto a quelle normate per legge. Parlare di OGM come veicolo di pesticidi, quindi, mi sembra un'argomentazione un poco farraginosa. Dall'altro punto di vista, secondo me, è anche utile pensare come, ok, è da tanti anni che in passato si facevano delle biotecnologie tradizionali, hanno da fare incroci in maniera totalmente irrazionale, andando poi a vedere, una volta fatto un determinato incrocio, se il risultato poteva essere rispondente o meno alle nostre tesi. Bene, andiamo a studiare, andiamo a fare ricerca, a capire in maniera razionale quali possono essere i tratti che possono dare realmente un vantaggio a quelli che sono i problemi del sistema agroalimentare italiano e europeo, che sono tanti. Quello che mi sembra un pochino pretestuoso è parlare solamente di OGM senza andare a capire come l'innovazione e la ricerca scientifica potrebbero andare a risolvere tanti problemi del nostro sistema agroalimentare che sta diventando non sostenibile, ogni anno di più. E lei dice che gli organismi geneticamente modificati potrebbero aiutare da questo punto di vista. Fidenato, c'è del pesticida nelle sementi che lei pianta oppure no? Ma diciamo che la signora ha detto delle cose un po' inesatte. Ecco, innanzitutto direi che il tratto genetico che... Mi faccia solo dire una cosa. Guardi Scaffidi, giusto come segnalazione, tra poco le arriva Manforte, nel senso non la lascio da sola contro due, non si preoccupi. Vada Fidenato. Allora, sì, innanzitutto il tratto genetico che attualmente è autorizzato per la semina è una proteina che esiste in natura, appunto prodotta da questo Bacillus thuringiensis, proteina che viene utilizzata dagli aggregatori biologici nelle loro pratiche culturali per combattere degli insetti. Quindi probabilmente chi ha mangiato prodotti biologici che magari non erano stati ben lavati, probabilmente hanno mangiato questa proteina che la ritroviamo poi inserita nel gene delle piante del mais. Per quanto riguarda gli erbicidi, non è vero che è inserito un erbicida, è inserito un patrimonio genetico che produce un sistema enzimatico che disattiva un diserbante che si trova in natura in una petunia, in una pianta normale che si trova in una petunia. Ovviamente non avremmo potuto in natura, perché c'è la barriera di specie, portare dentro questo gene della petunia nella soia o nel mais, però adesso con le tecniche del DNA ricombinante riusciamo a farlo. Però volevo dire che oggi stesso i prodotti che noi consumiamo sono derivati da manipolazione. Ad esempio la fragola che noi la troviamo così grande deriva da una manipolazione con la colchicina che ne ha aumentato il patrimonio genetico da 2N a 6N. Il triticale è una combinazione tra segale e frumento, quindi anche qui è stato superato la barriera di specie. Ma ad esempio lo stesso mulo, noi andiamo a mescolare il patrimonio genetico dell'asino e del cavallo e produciamo il mulo. Quindi è inutile che ci meravigliamo di queste cose qua. Esistono in natura, sono esistite, le stiamo consumando. Qui si tenta invece di fare una gran confusione, un gran polverone. Non è vero che la qualità è solo di chi produce biologico tradizionale. Con il biotecnologia si fa grande qualità e il nostro agroalimentare attualmente, come l'ha detto quell'ascoltatore, è pieno di animali che consumano OGM ogni giorno, quindi è un'ipocrisia continuare a dire, ed è una falsità dire che l'OGM non produce qualità. Ma voglia, produce molta più qualità rispetto ad esempio ad altre tecnologie alimentari. Sì, a onor del vero, Fidenato, mi corregga se sbaglio su questo, però in realtà l'incrocio che porta al mulo tra cavallo e asino è il superamento di una barriera di genere e non di specie. Con la specie andiamo un po' più a fondo della questione, mi sembra che quello fosse lo snodo che stesse sottolineando la Scaffidi. Comunque, che è appunto una questione diversa, insomma, il ragionamento che viene fatto dall'altra parte è gatto con cane, non cane con lupo, ecco, tanto per intenderci. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, avete ragione, il genere sta sopra la specie, ma avete capito benissimo che cosa intendo e di che cosa sto parlando. Comunque, sì, correzione, il genere sta sopra la specie. Eleonora Frattolin, consigliere regionale Friuli Venezia Giulia del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuta. Ieri era là alla semina lei, ma non certo per assistere con gioia a tutto questo, no? No, eravamo lì unicamente per esprimere il nostro dissenso, ma più che verso l'agricoltore che era nel pieno delle dei suoi diritti, verso le istituzioni che hanno permesso di arrivare a questo punto, per una lentezza, insomma, decisionale o burocratica, che dir si voglia. Quindi non ce l'avete confidenato in sé, ma insomma con la legge, con come funziona la legge, su più che altro su questa sorta di buco legislativo nel quale anche giustamente, insomma, illegittimamente Fidenato si è infilato. Senta una cosa, avete intenzione di protestare ulteriormente in qualche altro modo? Perché insomma io so che a Fidenato negli anni passati gli hanno anche devastato i campi, tra le altre cose. No, non siamo per questo tipo di proteste. Spingeremo assolutamente perché venga applicata al più presto la clausola di salvaguardia e basta, insomma, altri tipi di proteste le lasciamo ad altri. Che le faranno, secondo lei? Ci sarà, c'è rischio, c'è qualche rischio di questo genere? No, ma le chiedo solo se c'è qualche rischio, secondo lei, visto che era là, ha visto l'aria che tira, poi lo chiederò anche a Fidenato, che tra l'altro è in linea con noi. Ma può anche essere, visto che anche il ministro si è espresso in maniera abbastanza decisa contro questa semina, per cui può anche essere che questo lasci il campo ad azioni più gravi in merito. Ho capito. Perché protestate contro Fidenato e contro... Perché siete contro gli OGM? Molto, molto semplice, le chiedo di spiegarcelo molto semplicemente. Perché a tutt'oggi non ci sono studi epidemiologici fatti sull'uomo che dimostrino la non tossicità degli OGM. E chi dice il contrario si basa unicamente su questa mancanza di studi scientifici. E gli unici studi che vengono fatti dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che però ha un protocollo abbastanza carente in quanto si basa solo su studi di tossicità a breve termine. E quindi non va a ricercare i danni sul lungo periodo. Che è quello che ci diceva Cinzia Scaffidi poco fa di Slow Food. Fratolin, la ringrazio perché che ci deve salutare, quindi le auguro una buona giornata. Voglio sentire qualche altro ascoltatore e poi tornare dalla Scaffidi e da Maccaferri su tutto questo. Solo una curiosità, Fidenato, ma il corpo forestale è già arrivato oggi in azienda o no? Ma perché dovrebbe arrivare in azienda? Perché ha detto la De Girolamo che glielo manda per verificare che se mette. La De Girolamo, come ha dimostrato lo Stato italiano e tutte le associazioni che sostengono questa cosa, sono fuori legge. Mi pare che c'è stata una sentenza chiara che ha chiarito finalmente che non si può chiedere un'ulteriore autorizzazione ed è 13 anni che lo Stato italiano ci vieta di seminare. Pensi che razza di Stato che abbiamo, uno Stato fuori legge che non rispetta le leggi europee e oggi non rispetta neanche le sentenze. E quindi se arriva il corpo forestale a vedere che sementi hanno, gli apre la porta, cosa fa? No, casa mia o entra con un mandato di perquisizione o non entra, quindi sia pacifico, si mette il cuore in pace. E che è ora che lo Stato italiano, in particolare il ministro, rispettino le leggi e le sentenze. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Io sono un biotecnologo genomico specializzato all'Università della Sapienza e volevo dire semplicemente due concetti. Uno, se gli ascoltatori che erano contrari alle OGM conoscessero la materia legislativa in ambito europeo e se sapevano la complessità con cui vengono regolamentati gli OGM in Europa, dove ad esempio dei prodotti che sono stati ingegnerizzati attraverso dei raggi X o comunque delle radiazioni non sono di fatto OGM, ma sono qualcos'altro. Per OGM si intende semplicemente la tecnica molecolare che io utilizzo per cambiare l'assetto proteico di una pianta. Le chiedo, Marco, a questo punto andiamo sull'esempio pratico, no? Parliamo di... Lei si sta riferendo chiaramente al grano creso, che è quello che abbiamo praticamente in quasi tutta la pasta che mangiamo sostanzialmente. Voglio sapere se i vari ministri o comunque tutti gli aspettatori hanno avuto dei problemi in questi 35 anni, 43 anni di... in cui hanno mangiato il grano creso, vorrei sapere se hanno avuto problemi. Questo non possiamo saperlo però, Marco, perché non è stato fatto uno studio su questo. Adesso lo dico, appunto, ripeto, molto, sto cercando di ragionare molto laicamente su questa questione. Marco da Roma, buongiorno. Marco abbiamo sentito, scusate, Saulo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono un piccolo produttore di mais, io sono favorevole agli OGM, sarei favorevole, insomma. Perché tanto quasi tutto il mais, i cereali che arriva dall'estero sono quasi tutti trattati, non so se la gente lo sa queste cose, anzi vanno a prendere il mais dall'estero perché è più buono, più peso specifico, più in pratica è meglio, diciamo, danneggiandoci noi. Intanto lo sanno che in base... il mais ha anche degli insetti che diciamo che lo divorano, quindi c'è da trattarlo, c'è da dare insetticidi per la piralide due o tre passate, ora c'è anche nella pianura padana la diabrotica, quindi se viene un mais che non che diciamo che non ha bisogno di trattamenti già dalle semine, penso che sia 100 volte meglio che non dare dei settimane. E quindi cosa vuole fare? 30 giorni prima della raccolta. Saulo, e quindi cosa vuole fare? Lo vuole seminare sto mais OGM oppure no? Sto grano OGM? Io l'ho già seminato, diciamo, primavera, un mese fa, però se ci seminerei, io sono favorevole. Quindi lei ha già seminato, ma è legale oppure no? Non è legale, o sì? No, io ho seminato il mais normale, diciamo, perché nel lago non si trova. Però se ci fosse quello OGM, diciamo, dal mio fornitore, io lo seminerei tranquillamente. Perfetto, magari si rivolga a Fidenato, appunto. Ancora un altro ascoltatore, Ubaldo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti e niente, un piccolo intervento, mi stavo chiedendo, ascoltandovi, se forse l'attenzione andava posta più che sulla salubrità dei prodotti, sull'etica nella produzione, perché lei indicava una fragola che anziché avere un patrimonio genetico diploide ne ha tre volte quello che è un patrimonio genetico normale. Qual è il confine nell'uso dei prodotti OGM? Questo sia in campo vegetale che poi forse in un futuro anche in ambito animale, cioè dove si può arrivare. Questo non, io non sono un ortodosso del biologico, però forse neanche un'ortodossia degli OGM ha un'etica sostenibile. Ok, grazie anche a lei, Ubaldo. Beh, allora, Cinzia Scaffidi ha sentito, mi sembra, un bel giro di opinioni, come dire, contrarie alla sua, e quindi la faccio rintervenire anche per rispondere a quello che dicevano Fidenato e Maccaferri sul tema erbicidi, pesticidi, insomma, soprattutto il ragionamento per cui si dice, insomma, alla fine, grazie al mais OGM, in realtà di pesticidi, di erbicidi, in sostanza ne uso di meno. Beh, intanto non è così, tant'è vero che quando ti vendono la granella di mais da seminare ti vendono insieme anche il kit del diserbante che a quel punto lì puoi dare senza danneggiare il tuo mais, e quindi ne immetti nell'ambiente una quantità comunque superiore, nel senso che lo fai con molte meno preoccupazioni per il tuo raccolto, perché il tuo raccolto non verrà colpito dall'erbicida, verranno colpite soltanto tutte le erbe intorno. Questa è la prima preoccupazione, e quindi comunque poi questo erbicida che si deposita sull'alimento, diciamo così, da qualche parte finisce, e in particolare nella nostra pancia finisce lo stesso. Secondariamente, la questione della soia. Il problema della soia che viene importata e che è OGM è un problema, l'ascoltatore ha ragione. Sì, in realtà latte... l'ascoltatore, per correttezza, Scaffidi, l'ascoltatore non lo poneva come un problema in realtà. Cioè lo dava No, lui dice, certo, lui dice però la soia viene importata ed è anche soia OGM, perché non ci sono regolamentazioni sulla mangimistica. Questo è un problema che noi abbiamo posto, o che stiamo per porre, insomma, al nuovo ministro, particolarmente in occasione di CISL, la manifestazione su tutta la filiera lattiero-casearia che faremo a settembre, che facciamo in lì porremo al ministro questo elemento di chiedere una regolamentazione più chiara e più rigida sulle questioni di etichetta dei mangimi OGM, cioè chi compra mangimi deve sapere che cosa sta dando ai suoi animali, perché è chiaro che insomma, l'idea di una qualità del latte non si può basare soltanto sulla conta delle cellule somatiche, ma deve essere una idea un pochino più complessa di che cos'è la qualità. Terzo spunto, gli insetti del mais. Gli insetti del mais si combattono in maniera efficace, come abbiamo dimostrato con tutta l'azione fatta a proposito dei neonicotinoidi per le api, che uccidevano le api. Abbiamo dimostrato con tutta una serie di direttive regionali che hanno chiesto e obbligato gli agricoltori a fare la rotazione, hanno riscoperto che basta fare la rotazione e la diabrotica non c'è, o comunque c'è in percentuali ridicole. Allora, cerchiamo di non dimenticarci questo elemento, perché il fatto che tutta una serie di provvedimenti sani per un'agricoltura sana con gli OGM non si potranno più fare, perché tu non puoi fare monocoltura di mais e poi farla ruotare, quindi devi portare comunque mais su mais ogni anno, e quindi questo è chiaro che questo peggiora la sanità di un campo, perché non riesci a ripulirlo dalle larve. Questo è un altro elemento di preoccupazione. Infine, quello che poneva l'ultimo ascoltatore, se non sbaglio, sì, un problema di carattere etico. Ecco, non so se chiamarlo di carattere etico, però c'è un problema di carattere. Allora, chi fa OGM in un paese come il nostro, dove non ci sono le superfici, sì, per stringa Scafidi che devo dare la linea alla viabilità, le fasce di rispetto, comunque impedisce a chi vuole fare biologico di farlo, perché le contaminazioni sarebbero inevitabili e questo impedirebbe a chi vuole mangiare biologico di mangiarlo, e il biologico è l'unica cosa che sta funzionando dal punto di vista economico in questo paese oggi. E poi c'è un problema di libertà delle sementi. Le sementi si devono comunque riacquistare ogni anno, gli agricoltori non se le possono fare, e diventa una dipendenza economica della agricoltore dalla casa sementiera che non ha via d'uscita. 9 in punto. Molti messaggi sulla nostra pagina Facebook. Anilina Candida dice: geniali. Allora, no, dice: la soia OGM è geneticamente modificata per resistere a dosi quadruple di diserbanti. E ancora, cioè abbiamo Stefano Lucidi che dice: no agli OGM, no alla manipolazione genetica, alla mescolanza di specie e razza, soprattutto no ai brevetti DNA OGM. Gregorio Lenarduzzi: ma che fidenato si vergogni, sono un agricoltore, sono contrarissimo agli OGM in Italia. Ci stiamo, testuale, lo leggo, insomma, ci stiamo fottendo la sovranità alimentare, la storia e il cammino che le sementi hanno fatto con noi, che Dio gli mandi la tempesta, glielo devo dire, Fidenato, le augurano tempesta. Voglio sentire anche Roberto da Verona, buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Io produco pane e pasta utilizzando esclusivamente grani antichi coltivati da agricoltura biologica, specificatamente biodinamica. E posso garantire che ciò che afferma questo signore è falso, perché l'agricoltura che usa gli OGM e le sostanze chimiche produce, prima, la devastazione del terreno. Le immagini, avete citato il Creso. Il Creso è stato modificato nel 1973, è un grano a spiga nana con radici molto piccole. Questi due fattori cosa impongono? Che il grano deve essere nutrito rigorosamente dall'alto con sostanze chimiche. Spiga nana vuol dire che le erbacce lo sovrasterebbero e quindi non crescerebbe, quindi diserbo in grossa quantità. Per cui l'OGM produce, primo, la devastazione della terra, poi la devastazione dell'organismo, perché non è vero che non ci sono le ricerche scientifiche, queste dal 1973 in poi sono state condotte, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne è perfettamente consapevole e ha fatto pubblicazioni. Con l'OGM si producono celiachia, candida, acidosi, e si va a modificare il sistema immunitario dell'individuo, creando una piattaforma dove la stragrande maggioranza delle patologie che noi oggi subiamo sono proprio dovute da questo. Grazie, grazie, grazie Roberto. Allora, affido la risposta a lei e a Cinzia Scafidi, all'ultimo ospite che abbiamo. Purtroppo abbiamo veramente pochissimi minuti, ma lo recupereremo, insomma, e torneremo su questo tema, che è Eddo Ruggini, che è docente all'Università della Tuscia di Viterbo, già preside, ex preside della facoltà di Agraria. Buongiorno Ruggini. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Esattamente un anno fa, che cosa succedeva? Ci fu una denuncia presentata dalla Fondazione Diritti Genetici di Mario Capanna per una sperimentazione che stava facendo l'Università della Tuscia su alberi, e in questo caso non grano, insomma non piante, ma proprio alberi geneticamente modificati, insomma, poi per un buco legislativo, anche qua un buco legislativo, sono finiti in fiamme nell'ottobre scorso. Dunque Ruggini, però io esatto, la voglio sfruttare proprio per rispondere tanto a Cinzia Scafidi quanto all'ultimo ascoltatore. Abbiamo purtroppo solo un paio di minuti, 2-3 minuti, però insomma ci aiuti anche lei. Sento molto male perché sono per strada al cellulare. Tuttavia, per quanto riguarda l'uso dei pesticidi oppure dei diserbanti, non è vero che è in aumento, anzi sono diminuiti drasticamente secondo le statistiche, e quindi se ne usano pochissimi proprio per evitare appunto di contaminare i suoli. Quindi, per quanto poi riguarda grani antichi grani moderni, certo, l'ultimo ascoltatore diceva si può combattere le erbacce con grani a taglia alta, ma quanto producono questi grani? Producono pochissimo. Noi oggi abbiamo bisogno di produrre molto con l'agricoltura biodinamica, biologica, benissimo, sicuramente è importante questo qui farlo, ma quanto si può produrre? Noi abbiamo bisogno di sfamare il pianeta, quindi abbiamo bisogno, e soprattutto abbiamo bisogno di fare presto, di cambiare le varietà rapidamente per adattarle alle condizioni Ruggini, ambientali. Lo snodo, Ruggini, però, che poneva l'ascoltatore sono i rischi per la salute. Abbiamo circa un minuto e mezzo. I rischi per la salute fino a questo momento non ce ne sono. Quelli che sono tutti questi prodotti che sono in commercio non hanno dimostrato di avere effetti deleteri sulla salute. Sì, ci sono stati di recente la ricerca fatta da un francese, ma si è visto che le conclusioni che lui dà non corrispondono poi ai dati che ha tirato fuori. Assolutamente non c'è nessun rischio per tutti quei prodotti che sono stati posti in commercio, perché sono stati esaminati attentamente. Magari tutti i prodotti prima di essere posti in commercio venissero controllati attentamente. Purtroppo questo non si fa, si fa soltanto con gli OGM. Bene che si facciano anche per quegli altri prodotti, perché non è vero che dall'incrocio tutti, quindi un miglioramento genetico tradizionale, tutti i prodotti sono di alta qualità. Assolutamente. La fermo, Ruggini. Voglio dare un minuto a Simone Maccaferri, che ho fatto parlare pochissimo e gliene chiedo scusa. Oggi avevamo tanti ospiti. Un minuto, perché in realtà mi sta scrivendo su Twitter che c'è una ricerca americana epidemiologica sugli OGM. Maccaferri, in un minuto. Volevo rispondere alla consigliera del Movimento 5 Stelle dicendo che è falso dire che non vi sono studi epidemiologici sugli OGM, quanto è vero dire che ciò esiste in Italia. Negli Stati Uniti, dove mangiano OGM da tanti anni, l'FDA ha chiesto più volte parere su studi epidemiologici al Centro per il Controllo di Patologie, che è l'organo deputato a fare gli studi epidemiologici. L'altra cosa che invece volevo dire è che dire che il biologico perde ogni garanzia della semina OGM è quanto di più lontano da un approccio di libero mercato possibile. Slow Food capirà perfettamente che il Made in Italy è importantissimo, il DOP è importantissimo, è una percentuale in crescita dell'economia italiana, però la diversificazione del portafoglio dei prodotti e l'innovazione non può che fare bene per una diversificazione economica di quello che l'Italia produce. Allora, grazie Simone Maccaferri, Cinzia Scaffidi, Giorgio Fidenato, Eddo Ruggini, grazie a tutti voi per l'ascolto, le mie scuse agli ascoltatori, non sono riuscito a far intervenire, ma guardate, promesso che ci torniamo, magari anche approfondendo anche su un argomento specifico, su un aspetto specifico degli OGM, magari solamente la questione salute. Ci torniamo, promesso. Grazie Alessandro Marcotulli in redazione, Filippo Oreggi in regia. A tutti voi per l'ascolto. A domani. Radio 24. La passione si sente.